Ciao a tutti, oggi siamo qui con la banda popolare dell'Emilia Rossa, nello specifico Paolo Brini, voce del gruppo, e Massimiliano Codeluppi, chitarrista. Intanto ciao ragazzi. Ciao, grazie per l'ospitalità. Grazie a voi. Allora, io ho preso un po' di informazioni. Voi nascete nel 2011, giusto, a Modena? Esattamente, il 25 aprile per la precisione. Ottima data. Volete parlarmi un po' dei primi anni? O come nasce il gruppo? Come vi siete incontrati, conosciuti? Ma sì, il gruppo, diciamo così, nasce essenzialmente sulle linee di montaggio delle principali fabbriche di Modena e provincia, da appunto lavoratori, operai e militanti metalmeccanici che appunto stanchi del solito 25 aprile fatto a messa cantata che ormai era insopportabile, ci si è scoperti che ognuno suonava più o meno uno strumento e quindi siamo saliti su un camion e durante il corteo del 25 aprile abbiamo cominciato a suonare e così siamo nati. Poi diciamo così col passare del tempo si sono aggiunti anche musicisti professionisti, quindi non siamo solo metalmeccanici ma anche musicisti professionisti e di cui uno appunto è Max, e questo è stato l'inizio della nostra avventura. Sì, avevo letto, era diciamo una forse la cosa più che mi aveva colpito di più, insomma, la commistione, il fatto di essere nati, esatto. Insomma, anche come gruppo di amici, immagino, e poi piano piano con la crescita certo, invece. Sì, amici, militanti, esatto, insomma, militanti di fabbrica certo. Poi ovviamente da cosa nata cosa. Certo, leggevo proprio della presenza di appunto delegati, SRU della FIOM, esatto, insomma, sì, politicamente sì, impegnati, esatto. Molto molto bella questa cosa. E sì. Noi ci siamo conosciuti in questi giorni perché voi siete usciti da poco con un nuovo brano che è Lo Sceriffo della mia città, brano che anticipa l'album per la Man in Alto Records, tra l'altro, che anticipa il prossimo album per il quale tra l'altro avete insomma lanciato un crowdfunding che ho visto sta andando anche molto bene. Sì, per fortuna sì, il nuovo album si intitola sempre Dalla parte del torto, diciamo così, ovviamente una chiara citazione e ripresa dell'aforisma di Brecht che credo sintetizzi molto bene il senso delle 10 canzoni che saranno presenti nel nuovo album, e anche un piccolo omaggio a Claudio Lolli che qualche anno fa aveva pubblicato un album dal titolo Dalla parte del torto, e diciamo così con questo sempre che abbiamo aggiunto vogliamo, come dire, dare continuità e un messaggio di continuità con quel tipo di musica militante. Guarda, tra l'altro posso anche svelare, non eravamo scesi nei dettagli però dell'intervista che avremmo fatto, però io dopo, quando poi avremmo, insomma, dopo aver ascoltato la canzone e averla fatta ascoltare insomma, alle persone ora con noi, mi ero appunto segnato questa cosa, che quando l'ho ascoltata la prima volta, la primissima sensazione, ovviamente fatte le dovute insomma differenze musicali, però la prima cosa che mi è venuta in mente è stata Borghesia di Lolli, perché non lo so, perché mi è sembrata simile come dire volontà di creare un quadro della situazione, di dare un'idea del mondo in cui si vive, e insomma analizzarlo e magari prenderlo anche a schiaffi, ecco. Assolutamente. Come dire, ci piace come tipo di riferimento questo a Lolli. Sì, io sono un fan, diciamo, quindi mi è venuto facile. Però ecco, poi dopo averla ascoltata, magari scendiamo anche nei particolari, perché mi faceva piacere parlare anche del fatto che nella canzone c'è una collaborazione con Luca Persico, lo Zulu, diciamo. Per noi è uno di famiglia, nel senso che tutti qui nella nostra zona, tutti quelli della nostra età, insomma, ci sono cresciuti con lui, con i 99 Posse, quindi rivederlo, ritrovarlo è sempre bello. Volevo chiedervi come era nata la collaborazione, come vi siete conosciuti. O se è una cosa che va avanti da un po', o se è stata... Sì, sì, no, ci siamo conosciuti da un po' di tempo. Diciamo, la primissima volta è stato nel 2013, che avevamo condiviso un palco a San Giovanni a Roma. Uh-huh. E dopodiché, sì, diciamo così, questa cosa della canzone è venuta un po' quasi per caso, nel senso che, o meglio, c'era l'idea di fare un pezzo e di farlo con lui. E, avevamo questa canzone, ci mancava il ritornello, io gli ho scritto, gli ho mandato il pezzo, gli ho detto, senti, ma a noi ci manca il ritornello, tu cosa dici? Dopo 20 secondi mi ha richiamato e mi ha cantato il ritornello che già aveva lì da un sacco di tempo e che non sapeva dove mettere, dove infilare, e che era perfetto per la nostra canzone, come sentirete. Ottimo. Allora, se va bene anche per voi, passiamo intanto all'ascolto della canzone, così poi ne parliamo appunto dopo. Esattamente, dopo l'ascolto. E dopo te ne parla Max, che è l'autore della telefonata, che sentirai. Perfetto, perfetto, grazie. A tra poco, ragazzi. Lo sceriffo della mia città ha decoro come priorità. Lui la piaga della povertà, solo come in America. Lo sceriffo vuole solamente proteggere per bene la sua gente. Toglie le panchine alla stazione, i facchini in lotta mette in prigione. La famiglia è sempre al primo posto, solo quella del colore giusto, altrimenti è di cattivo gusto. Sul barcone tu sei una lotta troppa una lotta e non sacce si chiudo da tua gente che da vota. Tu sei una lotta troppa una lotta e si non le capita moto di canata vota. Tu sei una lotta si sempre stata lotta e non sacce si chiudo da tua gente che sa vota. Tu sei una lotta troppa una lotta a te chi non ti dice nata vota lotta. Sì, e qua fuori da casa mia c'è un barbone che dorme. Come dice? No, mi spiace, ho finito i colpi. Lo sceriffo della mia nazione dona sicurezza e protezione. Per le strade manda i suoi soldati ed i rave sono tutti vietati. Ora è tutto pronto per il via. Lui risanerà l'economia con l'aiuto della polizia del Sacro Cuore di Maria. La movida solo a pagamento, non sopporta il divertimento di chi non segue il suo regolamento. Il turista ha la precedenza, lui gli offre massima accoglienza e tanto tu rimani senza stanza. Cucina rotta, troppo e non sacce si chiudo da tua gente che da vota. Tu sei una lotta, troppa una lotta e si non le capita modo di canata vota. Tu sei una lotta, si sempre stata lotta e non sacce si chiudo da tua gente che sa vota. Tu sei una lotta, troppa una lotta a chi, non ti dice nata vota lotta. Tu sei una lotta, troppa una lotta e non sacce si chiudo da tua gente che da vota. Tu sei una lotta, strofa. Pronto? Pronto polizia? No, volevo dirvi che è tutto a posto, il barbone era già morto, di freddo. Eccoci di nuovo qui. Allora, come avete ascoltato tutti e come abbiamo anticipato anche precedentemente, a me è piaciuta molto la voglia da parte vostra di analizzare, insomma, tanti temi che probabilmente tutti quelli che stanno ascoltando ritrovano un po' sulla propria pelle. Mi sono piaciute molto, diciamo, l'idea di, purtroppo ormai anche un po' diffusa, è la povertà vista quasi come una vergogna ormai, il discorso della famiglia tradizionale, insomma la sicurezza come valore fondante, insomma a volte anche, come dire, posticcia, e quella attualissima ormai degli alloggi, cioè in questi giorni i ragazzi la protesta delle tende, sembra veramente azzeccata come cosa. E poi tra l'altro immagino nella vostra zona, ma particolarmente nella nostra, dove non so, tra Costiera Amalfitana e altro, il discorso degli alloggi è diventato, appunto in zone fortemente turistiche, è diventato davvero proibitivo, nel senso che poi chi ha casa insomma cerca di fittarla e guadagnarci il più possibile. Una coppia di ragazzi che magari non ha i genitori, appunto, che possono dargli una casa, sono costretti ad andare via. Ci sono zone, immaginate, non so, un ragazzo di Positano che non ha casa non vivrà mai a Positano, e credo che questa cosa ormai sia talmente diffusa in tutte le zone appunto altamente turistiche d'Italia, se non anche di tutto il mondo, che è diventato un problema serio. In generale mi pare che di fondo ci sia un discorso sulla libertà individuale o insomma di massa, che sembra un po' tutti a rischio in questo specifico momento, tra l'altro. Sì, in un certo senso si può dire che si parla di libertà, nel senso che questo pezzo, quando abbiamo iniziato a scriverlo, doveva parlare di gentrificazione. Nel senso che è un pezzo che io personalmente vivo a Bologna, ho visto negli ultimi 7-8 anni la città cambiare parecchio. Mi è sembrato che la città sia stata venduta al signor Unipol, che di contro poi ha consegnato le chiavi della città all'amministratore delegato di Ryanair, per cui adesso, se per caso dovesse smettere di esserci questo flusso improvviso ed estremamente remunerativo di turisti, la città è spacciata. Poi contemporaneamente gente come me, che fa un lavoro quasi normale, non ha la possibilità di permettersi di vivere da solo, per esempio, perché c'è troppa domanda, troppa poca offerta, i pochi appartamenti decenti che sono in giro per la città sono diventati Airbnb, per cui insomma io mi sento, personalmente mi sento molto tradito dalla città che abito, e questa era la cosa principale che volevo denunciare in questo pezzo. Poi non è un segreto, visto il risultato delle ultime elezioni, a maggior ragione abbiamo deciso di rincarare la dose. E mi dispiace che il testo di questa canzone, che è stato scritto in tempi non sospetti, si stia rivelando profetico. Vero, vero, attualissimo ormai. Io una cosa che, insomma, se mi concedete, noto come differenza di prospettiva è questo: quando sento le tue parole, sarà perché nell'immaginario, insomma, la zona da cui parlate è per noi quasi un punto di riferimento, nel senso, al di là adesso degli ultimi anni, però, come dire, nell'immaginario collettivo quello che viene fuori è, o almeno quello che immaginiamo noi, è un mondo, ecco, un po' migliore di quello che probabilmente viviamo noi. Però mi rendo conto che quello che percepiamo noi da fuori può essere anche completamente fuorviato invece rispetto a quello che, in cui vivete voi, ecco, giorno per giorno. Guarda, non sprei, non avendo mai abitato in altre zone, non mi sento in grado di fare paragoni, e sinceramente non credo neanche troppo nei paragoni, però quello che viene fuori, sì, è che c'è un problema insormontabile di possibilità che una persona ha all'interno di una città, e sta diventando sempre più grave, e finalmente qualcuno sta protestando. Poi certo. No, io mi riferivo alla percezione, ripeto, che magari noi abbiamo del fatto che in alcune zone possano esserci soluzioni magari migliori, dovuti anche a, insomma, un retaggio politico, alla possibilità, certo, di avere... Che però poi, appunto, parlando con te, parlando con voi, in quella situazione teoricamente migliore vivete, invece magari è un'illusione, ecco. Ma guarda, se si parla di punto di vista politico, mi sento di dire che è un'illusione al 100%, nel senso che la giunta di Bologna adesso è di centro-sinistra, ma insomma, comunque ci sono le multinazionali che sono radicate nel comune veramente in profondità, e quindi questo, cioè, come poi ti immagini, no? Quando le multinazionali entrano all'interno di un accordo, o si fa come dicono loro o l'accordo non c'è, e visto che in questo caso l'accordo c'è, la giunta di centro-sinistra è come se fosse di centro-destra o di centro-niente. Sì, diciamo che ha poca libertà, ecco, per sua colpa. Ok. e invece completamente al servizio. e invece, tornando al discorso della canzone e della telefonata che accennavi prima, vuoi raccontarci anche quello, per favore? questo è divertente. Dunque, 4 del mattino, io sto lavorando a questo brano, sono particolarmente ispirato e decido che a un certo punto ci vuole una telefonata. Memore delle troppe volte in cui ho ascoltato la versione dei Guns N' Roses di Knocking on Heaven's Door, dove appunto c'è la telefonata, non so se ricordate, sì. Ho deciso di provare a fare questa cosa, solo che volevo che fosse vera, quindi volevo veramente far sentire la tastiera del mio telefono e volevo che squillasse, ma ripeto, erano le 4 del mattino, chi potevo chiamare senza prendermi delle offese gratuite? Ho deciso di chiamare la sede di Fratelli d'Italia di Bologna, che tant'è che non hanno neanche un numero fisso e non hanno neanche spento il cellulare a notte, spero di aver infastidito qualcuno. Ma il tutù che si sente è avvenuto realmente, ed è una vera telefonata alla sede di Fratelli d'Italia, partito del nostro premier Giorgia Meloni. Ok, molto, molto divertente, certo. Intanto vi ringrazio del tempo che ci avete dedicato. Grazie a voi. Diamo tutti sui nostri social, daremo tutte le indicazioni per partecipare al crowdfunding, per anche dei vostri canali, quindi chiunque abbia voglia di insomma approfondire sarà facile trovarvi. E chiudiamo con un'altra vostra canzone che farà sempre parte dell'album in uscita. La canzone si chiama Lei. È un brano che vede questa volta la collaborazione con i Modena City Ramblers, quindi volevo chiedervi anche, insomma, di introdurlo voi, parlandoci anche dell'amicizia, presumo, essendo anche della stessa città, ecco, sì, questa è una collaborazione a cui noi ci tenevamo molto, ovviamente anche l'amicizia con i Modena City Ramblers è un'amicizia che dura da tanto tempo. E, insomma, sono sia loro sia i 99 Boss, ecco, oltre che musicisti sono anche militanti, amici, insomma gente che è coerente tra quello che dice e quello che fa, e a noi piacciono molto. La canzone nello specifico è in realtà un omaggio a un grande cantautore francese, Metec, o Meticcio, come lui si amava definire, e che è Georges Moustaki. Ed è una canzone di Georges Moustaki che noi abbiamo tradotto in italiano, l'originale era Sans la nommé, e l'abbiamo tradotta appunto con questa Lei, e abbiamo riarrangiato, e diciamo così, il risultato è quello che poi ascolterete. Abbiamo ovviamente avuto, diciamo così, abbiamo presentato e abbiamo ha avuto l'apprezzamento anche della figlia di Moustaki, e che è una cosa, insomma, che ci ha fatto molto, molto piacere. Certo. Come dire, è un brano che credo parli da solo, come tutte le canzoni, direi, spettacolari che ha scritto questo grande cantautore. Insomma, abbiamo fatto un po' una De Andreata, se così possiamo dire. sì, De Andre, con tutto, come dire, con tutto, esatto, pur essendo niente rispetto a De Andre, noi naturalmente, solo non paragonandoci a lui, ma nel senso che come lui appunto ha tradotto molta roba di Brassens, noi abbiamo provato a fare la stessa cosa con questo grande pezzo di Moustaki. Bello, grazie. Allora, in bocca al lupo per tutti. E ci risentiamo poi. Ok.